Quindi dell'occupazione delle fabbriche, di Proprio fatti. l'occupazione delle fabbriche, naturalmente ho un ricordo vivissimo, però non mi, Ecco, tanto com'è questo non che vi ricordo? ebbi, ecco, non vi ebbi una parte personale. Beh, è un ricordo al quale naturalmente si sovrappongono idee che sono poi maturate dopo, ma anche allora io ebbi nettamente la sensazione che l'errore che si commetteva era di non politicizzare il movimento. Che cioè è un fatto della importanza, dell'estensione, della gravità di quello che era rappresentato dall'occupazione delle fabbriche, anche per le forme esterne che assunse, sentinelle sui bastioni, bandiere rosse, Ah, sentinelle sui naturalmente, sì, bastioni. anche per quelle forme lì bisognava dargli uno sbocco di carattere politico. E invece, come tu sai, il movimento per un contrasto fra Confederazione del Generale del Lavoro e direzione del partito, il movimento rimase, si tentò di farlo rimanere nell'ambito di una rivendicazione sindacale per il controllo delle aziende, e Giolitti andò incontro a questa richiesta dei lavoratori, facendo un po' quel che aveva fatto all'inizio del secolo con gli scioperi nelle campagne, cioè da una parte concedendo, dall'altra frenando, impedendo, insomma. È nota la sua caratteristica frase: hanno occupato le officine, beh, ci stiano, quando verranno fuori vedremo. Un altro avrebbe perso completamente la testa, avrebbe ordinato magari alle truppe di entrare, ma forse erano gli stessi capi delle aziende che non volevano Certo. soluzioni di quel carattere. Comunque l'impressione fu, comunque l'impressione, anzi la valutazione fu, che un movimento di quella natura non poteva rimanere confinato nell'ambito sindacale, che di esso dovevano assumere la responsabilità le forze politiche e il partito che guidava le masse, che allora era il Partito Socialista.